Noi siamo in piazza perché sulle ragioni comunque del movimento delle donne, della giornata internazionale delle donne, come sindacati di base sosteniamo tutti i temi che diciamo sono contro, siamo contro la violenza alle donne chiaramente, e le denunciamo, e in più lo sfruttamento del lavoro delle donne che è altissimo, soprattutto col Covid, e le donne hanno pagato un prezzo più alto di tutti gli altri. Se parliamo di licenziamenti, di dimissioni, nel 2021 su più di 100.000 licenziamenti 99.000 sono di donne, e parliamo anche di guerra, diciamo no alla guerra, perché noi non siamo d'accordo su questa assurda guerra che si è scatenata, su Putin che ha invaso un paese in questa maniera e sta facendo morti e devastazioni. Siamo vicino alle donne di tutto il mondo, sicuramente alle donne ucraine, alle donne russe, perché comunque anche in Russia vediamo che c'è un movimento che contrasta questa assurda guerra che si è scatenata, e noi pensavamo che non poteva succedere una cosa del genere. In Europa dicono tutti che sono 70 anni che non ci sono guerre, si dimenticano o fanno finta di dimenticarsi che la guerra in Jugoslavia è stata devastante, che è durata 10 anni, e noi l'abbiamo avuta nel cortile di casa. Ma anche questi paesi, l'Ucraina, la Russia, anche se vogliamo, non è che sono lontani da noi. Noi qui abbiamo un sacco di donne soprattutto che fanno le badanti, o di donne che lavorano qui, e di abitanti di quei paesi che lavorano nei magazzini della logistica. C'è un altissimo numero di rumeni, moldavi, ucraini, e quindi pensiamo che questa guerra è una assurdità, deve immediatamente finire. Secondo noi i negoziati devono essere la prevalenza, si deve trovare un accordo subito, e la NATO, che doveva scomparire, riappare adesso come un'entità assolutamente inutile, cioè inutile nel senso che se con la caduta del muro di Berlino era caduto anche la necessità di fare un fronte anti-sovietico, dopo non ce n'è più stata la necessità, però adesso si ritira fuori perché adesso c'è questo scontro assurdo. Noi non vogliamo che vengano uccise delle persone, noi siamo contrari al fatto che il governo italiano e anche gli altri governi in Europa e l'Europa stessa dia dei finanziamenti per il riarmo, mandi delle armi letali in quel paese. Noi vogliamo solo aiuti umanitari, siamo solidali con quei paesi. Questo sciopero era già stato indetto prima che ci fosse l'invasione dell'Ucraina, e chiaramente noi oggi abbiamo scritto un no alla guerra grande così, e continueremo a dirlo, e sicuramente faremo prossimamente anche degli scioperi nazionali contro, come sindacati di base, contro la guerra. Forse questo periodo durerà, pensiamo, moltissimo, e in tutto questo chi paga sono le popolazioni, sono le lavoratrici e i lavoratori, perché a noi ci fanno pagare tutto. Pablo Neruda diceva una cosa importante: quando ci sono le guerre ci si ammassa fra sconosciuti, no? Perché tu non conosci quello che è di fronte, spari e lui spara a te. Però invece i potenti che decidono queste guerre si conoscono bene fra di loro, però non muoiono mai loro.